e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Lunedì, primo giorno della settimana. Sì. Un giorno a cui affidiamo sempre una grande responsabilità, perché è il giorno in cui di solito ci proponiamo di iniziare qualcosa di nuovo. Il giorno dei buoni propositi per antonomasia. Esatto, ad esempio la dieta si inizia sempre lunedì. Anche ridi, perché generalmente lunedì pomeriggio ci riferiamo oppure a quello che deve ancora venire. Ma anche i detti scadono, vengono messi un po' in discussione. In questo momento sempre più persone decidono, senza aspettare il lunedì, spontaneamente di mettersi a dieta, meglio di correggere la loro dieta eliminando alcuni elementi per ragioni varie che vanno dall'etica alla moda, alle esigenze di eliminare o prevenire disturbi che si crede siano direttamente legati all'alimentazione, oltre a carne, latticini. Tra le sostanze che negli ultimi tempi vengono sempre più messe al bando c'è il glutine, la dieta gluten free va forte, miete consensi, e anche in questo caso c'è chi la segue spinto da un desiderio più o meno consapevole di emulazione, c'è chi invece lo fa nel tentativo di mettere fine a una serie di disturbi che sono tra l'altro molto diffusi, ad esempio la difficoltà a digerire, il gonfiore addominale, l'intestino irritabile. Ne parleremo con il nostro esperto. Se avete o state pensando di eliminare qualcosa dalla vostra alimentazione, chiamateci, cercheremo di capire se le rinunce sono necessarie e soprattutto quali conseguenze sortiscono nel breve e nel lungo periodo. Chiamateci se avete o state pensando di eliminare il glutine o altri alimenti dalla vostra dieta. Allora, quindi seguiteci con attenzione, perché sapete bene che la corretta alimentazione, il nostro grande messaggio che cerchiamo di diffondere sempre, aiuta ad immagazzinare le giuste energie per compiere tutte le nostre attività, ma anche le nostre case, lo sapete bene, per le nostre case gli aspetti legati all'uso corretto dell'energia sono sempre più importanti. La qualità di un immobile, anche il suo prezzo, si determinano anche in base alla sua efficienza energetica, o meglio alle sue prestazioni energetiche. C'è un attestato che indica proprio la misura di queste prestazioni ed è un attestato che da qualche tempo va obbligatoriamente allegato ai rogiti e ai contratti d'affitto. È l'APE, l'attestato di prestazione energetica, lo avevamo conosciuto anche in passato ma si chiamava ACE. Dal 1 ottobre deve essere redatto con alcune novità rispetto alle condizioni precedenti. Allora, vi siete già occupati di questo documento? Vi è stato chiesto? Dovrete produrlo? A chi vi siete rivolti? Quanto vi è costato? Ne parleremo poi con un funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico. Intanto voi fateci tutte le vostre domande all'800 24 0024. Odio i lunedì. Vedi che anche Vasco, Deborah l'aveva già detto lunedì, in tempi non sospetti. Comunque, mancanza di energia, mal di testa, digestione difficile, umore nero. Posso continuare, aggiungere ad esempio colon irritabile, eczemi, gonfiore addominale, prurito. Quando qualcosa non va, quando il nostro stato di benessere scricchiolo, va in crisi, il più delle volte cerchiamo il colpevole in quello che mangiamo. D'altronde siamo proprio quello che mangiamo, così ci insegnano, no? Fai che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. Se gli alimenti possono farci stare bene, possono anche inevitabilmente per converso alterare il nostro benessere. La sapienza popolare l'ha sempre intuito e in parte la scienza lo conferma. È un po' la sfida anche della nutrigenomica. Voi che ne pensate? Che cosa avete eliminato dalla vostra dieta per recuperare o mantenere benessere? Con quali risultati? La carne, i latticini, i lieviti, i cereali raffinati, lo zucchero, magari il sale, il glutine? In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Luca Elli, gastroenterologo dell'AIGO, che è l'Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi e Ospedalieri, e responsabile del Centro Celiachia al Policlinico di Milano. Buongiorno, dottorelli. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Dottore, volenti o nolenti, torniamo sempre lì, no? Alla dieta. Cerchiamo sempre una relazione tra quello che mangiamo e come ci sentiamo. Ad esempio, negli ultimi mesi si registra un boom di diete gluten free, una scelta che a volte è dettata dalla necessità di risolvere dei disturbi, li abbiamo accennati, come il gonfiore addominale, la digestione difficile, il colon irritabile, che pensiamo proprio possono essere scatenati dall'ingestione di questa proteina che, lo ricordiamo, è contenuta nel grano e in diversi altri cereali come orzo, farro, segale e avena. Cosa ne pensa, dottorelli? Sì, è proprio così come ha detto, nel senso che ultimamente si è assistito a un incremento dell'uso della dieta priva di glutine a scopo terapeutico, cioè per stare un po' meglio, quei pazienti come li ha descritti lei, che hanno magari dei sintomi specifici, che sono sempre stati tra virgolette etichettati come intestino irritabile, sembrano giovare di alcuni momenti di periodi in cui tolgono il glutine dalla propria dieta, e questo li fa star meglio. Ovviamente oltre ai sintomi intestinali, come lei giustamente ha detto, ci sono anche alcuni sintomi extraintestinali, la difficoltà alla concentrazione, alcuni problemi dermatologici, un senso di stanchezza. Ecco, tutti questi sintomi sembra che in alcuni soggetti traggano beneficio o spariscono togliendo il glutine, e questo solitamente, diciamo, l'incipit ce lo dice il paziente, cioè lui dice questi sintomi mi vengono subito dopo aver mangiato qualcosa col glutine, quindi a volte togliendolo, pur non essendo celiaci, ci può essere un giovamento dal punto di vista dei sintomi. E di questo parleremo anche con, naturalmente, con Deborah, che mi sta dicendo un po' è vero. Un po' è vero, d'altronde io l'ho sperimentato su me stessa, sono un po' sensibile a certi alimenti, per cui riducendoli. Vedi? Esatto. La parola chiave 800 24 0024. Messaggi come sempre stanno arrivando al 349 238 6666. Dottorelli, però ci sono delle persone che nei confronti del glutine hanno una vera e propria intolleranza, e sono i celiaci, quindi diciamo che in questo caso si elimina il glutine per dovere, no? Il loro numero nell'ultimo quarto di secolo è aumentato di 5 volte, soprattutto in età pediatrica, così dicono i dati, ma si può scoprire di essere celiaci anche in età adulta, in seguito magari ad un evento anche stressante che ci slatentizza forse la celiachia. Ci ricorda, dottorelli, quali sono i sintomi che ci dovrebbero far pensare a un problema serio nei confronti del glutine, un'intolleranza permanente? Quindi un conto è l'intolleranza permanente, un conto è la sensibilità al glutine. Certo. L'imputato è sempre lui, ma no, le dinamiche sono differenti. Esattamente. La celiachia, bisogna innanzitutto dire che è una patologia autoimmune, ossia il glutine causa o innesca un meccanismo che è non ancora proprio del tutto conosciuto, in cui il proprio sistema immunitario aggredisce se stesso, e quindi il glutine è, diciamo, la benzina che scatena questo meccanismo autoimmune, che poi causa per esempio la presenza di autoanticorpi nel sangue, quelli che vengono poi usati per la diagnosi, e causa soprattutto quel danno a livello del piccolo intestino, ossia l'atrofia. Il piccolo intestino è fatto con tanti villi, tante estroflessioni, che in chi è celiaco scompaiono, non ci sono più, e che poi questo tipo di danno del piccolo intestino provoca quelli che sono i sintomi della celiachia. Qual è il problema? Che i sintomi della celiachia sono molto vari ed estremamente variegati, e questo cosa provoca? Provoca il fatto per cui i celiaci sono sempre un po' sottodiagnosticati, nel senso, noi sappiamo che in Italia circa l'1% della popolazione, tra lo 0,5 e l'1% della popolazione dovrebbe avere la celiachia, ma i diagnosticati sono meno. Questo perché? Perché i sintomi sono molto vari, quindi va sospettata spesso, va cercata spesso, ma questo non sempre avviene. Quindi è molto difficile dare un identikit ben preciso al soggetto celiaco, perché i sintomi sono molti. Come giustamente ha detto lei, nel corso degli anni è aumentata molto la prevalenza, quanti celiaci ci sono molto aumentati, sia nei bambini che negli adulti. Adesso, per esempio, facciamo diagnosi anche in pazienti attorno ai 50-60 anni, e quindi sono i segnali che vi portano? Perché nei bambini piccoli è più semplice, la diarrea nel bambino piccolo può far accendere un po' la lampadina. Nel bambino è molto più semplice, perché, o relativamente più semplice, perché i sintomi sono quasi sempre quelli che anche nell'immaginario collettivo sono legati alla celiachia, cioè una diarrea, un calo ponderale, una magrezza non fisiologica. Poi il bambino spesso smette di crescere, questo allarma giustamente i genitori e il pediatra, procede alle indagini, agli esami del sangue, eccetera. E quindi nel bambino, diciamo, si è mantenuta una certa classicità dei sintomi, un identikit del bambino, cioè il bambino magro che non cresce con la diarrea. Questo si è un po' perso, soprattutto questo si è visto negli ultimi anni nell'adulto, dove i sintomi sono estremamente vari e molto sfumati. Ricordiamone alcuni prima delle informazioni sul traffico. I più classici sono, per esempio, la donna anemica, oppure la donna con delle alterazioni dell'alvo, l'anemia, l'osteoporosi, problemi al concepimento, difficoltà al parto, oppure anche i sintomi classici, cioè diarrea, un calo ponderale inspiegato, eccetera, sono questi qua un po' i sintomi che fanno da corollario alla celiachia, con severità molto diverse ovviamente. Allora, 800 24 00 24, intolleranza permanente al glutine o sensibilità al glutine, poi soprattutto diteci che se avete eliminato dalla vostra dieta spontaneamente o su consiglio del vostro medico un alimento o un gruppo di alimenti e con quali risultati. Subito dopo le informazioni sul traffico, Antonella da Viterbo e Sergio da Roma. Stufe e caldaie termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Cuore e denari. Di sensibilità al glutine, ma l'occasione propizia per parlare anche dell'intolleranza permanente al glutine, la celiachia. Antonella, buongiorno da Viterbo, benvenuta. Buongiorno, io ho deciso di togliere il glutine da pochi giorni, per la verità, perché ho sempre la pancia molto gonfia e così, parlando con dei conoscenti, mi hanno detto che se tolgo il glutine magari questo problema passa. Però volevo chiedere, ho semplicemente seguito un po' le indicazioni di amici, non sono andata dal medico. Volevo capire se effettivamente la pancia gonfia può essere uno dei sintomi dell'intolleranza oppure sto sbagliando e devo invece affidarmi a un medico. Grazie Antonella. Dottorelli, stia lì, ha registrato la richiesta di Antonella? Sì. Perché bisogna anche la concentrazione, bisogna certo. Avere, perché se il dottorelli perde la concentrazione, gli facciamo subito anche a lui un test. Sergio, buongiorno da Roma. Allora, buongiorno, salve. Io dico subito che non ho la celiachia, ho 43 anni, però l'unica cosa che ho eliminato spontaneamente dalla mia dieta sono le carni rosse, non proprio eliminate ma ridotte proprio al minimo. Però ultimamente, da qualche annetto, ho un po' di gonfiore anch'io addominale e il mio è soltanto un problema estetico che vorrei risolvere, quindi no, nessun problema, dolore oppure questo. È solo un problema estetico. Grazie Sergio, perché anche esatto. Quello conta. Allora, dottorelli, iniziamo dalla nostra amica Antonella. Ha detto: ma un po' di gonfiore addominale, succede sempre così. Anche io e Debra ci passiamo noi consigli. Prova così, fai cos'ha. Lei che dice? Sì, è un classico, diciamo, nel senso che il gonfiore addominale o il meteorismo è uno dei sintomi della gastroenterologia in assoluto più presenti e che viene riportato più spesso. Però la cosa importante di quello che diceva la signora Antonella è questo: prima di mettersi a dieta priva di glutine bisogna rivolgersi a un medico, a un gastroenterologo, e bisogna fare i test per la celiachia, perché la cosa importante quando si pensa che un sintomo possa essere correlato all'ingestione di glutine è escludere o verificare la presenza di una celiachia prima di iniziare la dieta. Questo perché? Perché gli esami del sangue, quello che noi facciamo quando vogliamo capire se un soggetto è celiaco, ci sono e vengono positivi nel caso di una celiachia solo nel momento in cui il paziente mangia normalmente, mangia il glutine, in poche parole. E quindi è importantissimo, prima di iniziare una dieta priva di glutine, consultare il medico e escludere o verificare la presenza di una celiachia. Questo assolutamente. La interrompo, dottore, perché sì. C'è proprio un'ascoltatrice, Arianna, che scrive: sono in dieta gluten free da circa un anno, lei sta bene, però vorrebbe fare i test, e allora chiede: devo reintrodurre il glutine per quanto tempo prima, chiaramente, dell'analisi? Certo, questo è un grosso problema che noi vediamo frequentissimamente nell'ambulatorio, cioè persone che hanno provato la dieta priva di glutine, magari si sono sentiti meglio, l'hanno proseguita ma non hanno escluso la celiachia. Questo diventa un problema, perché cosa bisogna fare? Nella stragrande maggioranza dei casi purtroppo bisogna riprendere la dieta normale per un tempo che non si conosce bene, e non si conosce bene neanche la dose, dipende un po' da quanto tempo si è prolungata la dieta priva di glutine, se per qualche giorno o per mesi. comunque diciamo va introdotto per almeno da 1 a 3 mesi per poi iniziare a fare la verifica della celiachia e gli esami del sangue e quindi vedere. E chiaramente non è sempre facile convincere il paziente a fare questo iter inverso, chiamiamolo così. Certo, perché da una condizione di benessere non vuole tornare indietro. Bisogna un po' costringerlo o comunque cercare di rimandare un po' il glutine, probabilmente gli torneranno dei sintomi. Quindi il messaggio è prima di togliere il glutine, verificate il medico e verificare se c'è una celiachia. Basta, perché questo è molto importante. Dottorelli, mi scusi, per un primo step è sufficiente l'esame del sangue? Primo step è sufficiente l'esame del sangue. I test che ci sono in farmacia sono attendibili? Allora, i test rapidi, noi consigliamo in generale il test classico, cioè l'esame del sangue, gli antitrasglutaminasi e vedere un po' a seconda dell'esito come procedere. Ci sono in farmacia dei test rapidi, è vero, attualmente qual è il problema? Che in realtà la diagnosi di celiachia non è un'urgenza, solitamente uno ha la settimana, la decina di giorni per fare l'esame del sangue e aspettare il risultato, che sicuramente ha un valore maggiore dei test rapidi. I test rapidi, alcuni sono un po' difficili da manipolare, se fatti dal paziente ci vuole... Insomma, volete metterci le mani voi, ho capito, dottore. Diventa più difficile, poi abbiamo paura soprattutto quando magari il test, quello fatto, autosomministrato, viene negativo, perché uno che viene positivo o dubbio poi farà l'esame del sangue, certo, farà dal medico, quindi se viene negativo magari perché non si è stato attenti eccetera, mentre invece se avesse fatto l'esame del sangue sarebbe venuto positivo, questo è un po' più preoccupante, ecco. Tra l'altro lei, dottorelli, è coordinatore di uno studio, si chiama Glutox, che è promosso proprio dall'Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri, che conferma che nel 25% dei casi la sensibilità al glutine è la causa di disturbi sinora attribuiti alla sindrome del colon irritabile e altre patologie del funzionamento dell'apparato digerente, e che il glutine sarebbe proprio responsabile di 1 caso su 4 di colon irritabile. Ci aggiorna rapidamente per beneficio dei nostri ascoltatori? In questo studio che è stato fatto e promosso esattamente dall'AIGO, dall'Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri, si è voluto vedere questo qua. Siccome questi tipi di sintomi, il gonfio addominale o la sindrome dell'intestino irritabile, comunque questi pazienti che hanno dei sintomi gastrointestinali ed anche extraintestinali, magari di origine sconosciuta, cioè hanno fatto tante indagini e non si è capito da che parte arrivano questi sintomi, cosa si è fatto? Si è provato a metterli a dieta priva di glutine per vedere se miglioravano, e nel caso di un miglioramento, siccome qual è il dubbio nostro e anche della comunità scientifica in generale, diciamo, è che questi pazienti che dicono che dopo una dieta priva di glutine stanno meglio, vadano incontro a quello che è detto l'effetto placebo, ossia un effetto dato dalla convinzione che quello che stanno facendo abbia successo, riporti un miglioramento, ma in realtà qualsiasi cosa avessimo fatto sarebbero migliorati comunque. È un effetto straordinario che dovreste studiare e lo state facendo, c'è un filone di ricerca, vero? Sull'effetto placebo, che uno dice, beh, effetto placebo in realtà deve essere una cosa magnifica, pensa che il nostro cervello riesce a produrre. Scusi, ho fatto questo piccolo inciso. No, ha ragione, è veramente un effetto straordinario. Comunque, per vedere se questo effetto della dieta priva di glutine fosse solo un placebo, cosa abbiamo fatto? Questi pazienti che ci dicevano sì, io adesso sto meglio con la dieta, glielo si dava di nascosto dentro delle capsule che potevano contenere o meno il glutine, per vedere che cosa. È stato uno studio un po' diabolico, nel senso, se quando riassumevano il glutine senza saperlo i sintomi tornavano, cioè i pazienti stavano male. E quello che abbiamo visto è che circa 1/4 di questi soggetti, in effetti, se prende il glutine anche di nascosto senza saperlo, non lo sapeva neanche il medico che prendeva il glutine, perché era un doppio cieco, era in cieco sia il paziente sia il medico, cioè quando gli dava la capsula nessuno sapeva cosa ci fosse dentro questa capsula. Bene, 1/4 dei pazienti, in effetti, quando gli si dà il glutine in questo modo per eliminare l'effetto placebo, continuano ad avere quei sintomi, cioè ritornavano questi sintomi. Quindi in effetti potrebbe essere il glutine che in questi particolari casi scatena i sintomi. Allora, ma c'è anche chi dice che il responsabile non sia il glutine, ma i cosiddetti FODMAP, che sono zuccheri che possono irritare l'intestino. Andremo a conoscerli insieme dopo il GR, scopriteli con noi e intanto 800 24 00 24. Noi siamo qui. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar ce l'ha con te questo. Ma no, ce l'ha con no, te, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a Noi Due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a Noi Due. Cuore e denari. Siamo tornati insieme, parliamo di glutine. Quando in, per una serie di ragioni che vanno dal gonfiore addominale, il mal di testa o semplicemente perché ce lo dice l'amico, decidiamo di eliminarlo. Abbiamo parlato di celiachia e abbiamo parlato di sensibilità al glutine. Il glutine è denominatore comune, ma le condizioni sono diverse. In linea con noi abbiamo il dottor Elli e anche Sara che ci chiama da Roma. 800 24 00 24. Tra poco chiederemo al dottor Elli di presentarci i FODMAP, che c'è chi dice che siano responsabili, come il glutine, dei nostri problemi intestinali e non solo. Sara, buongiorno. Buongiorno e un saluto a Nicoletta e Deborah, ringrazio di avermi fatto parlare. Grazie a lei, Sara. Venga la domanda, per favore. E la domanda è che io ho una leggera allergia al grano, risultava un più, però non l'avevo tolto totalmente. E adesso invece ho comprato una crema e questa crema mi ha dato reazione allergica. Tra gli ingredienti c'è il grano. Sto pensando di toglierlo completamente e i disturbi sono gastroenterologi e poi una stanchezza, quindi direi cronica. Ecco, anche una stanchezza. Allora chiediamo al dottor Elli, che così da come farà Deborah per l'ape, una sorta di vademecum, lo sì, facciamo anche per la sensibilità al glutine, dottor, e in questo caso l'allergia al grano per la nostra amica Sara. Sì, il problema della signora Sara è un altro, nel senso che è l'allergia al grano, che è un altro esiste. Di disturbi che possono, certo che esiste, che può essere scatenato dal glutine o da altre componenti del grano, che però è un'allergia, non è una celiachia, non è una sensibilità al glutine, è una vera e propria allergia. Infatti riferisce che anche ha avuto delle reazioni, penso, orticarioidi, spalmandosi questa crema che conteneva il grano, e quindi è una tipica allergia. La si può affrontare togliendo l'allergene, cioè togliendo quello che causa l'allergia, oppure provando a prendere degli antistaminici, cioè trattandola come un'allergia vera e propria. Vera e propria. Abbiamo accennato ai FODMAP, che sono questi piccoli zuccheri che possono irritare l'intestino. Esattamente. C'è una corrente di pensiero che dice che siano loro i responsabili di tutte quelle malessere che attribuiamo invece al glutine. Esattamente. Ultimamente diciamo, lo scenario si è complicato anche con l'inserimento di questi FODMAP, cioè questi zuccheri che vengono fermentati nell'intestino producendo gas, gonfiore, quindi tutti quei disturbi che gonfiore, che noi spesso accomuniamo anche alla sensibilità al glutine. È ovvio che la dieta, e quindi si può consigliare anche una dieta a basso contenuto di FODMAP, che non è la stessa cosa di una dieta priva di glutine, è una dieta molto più complicata, di solito è meglio farsi consigliare da un nutrizionista esperto, perché i FODMAP sono presenti in tantissimi alimenti. Vogliamo ricordarne alcuni, ad esempio nel latte, nei latticini. Nel latte, nei latticini, nei fagioli, nella mela, nei broccoli, in alcuni frutti, nel cavolfiore, per cui sono veramente... Anche nei dolcificanti a base di fruttosio, dottorelli. Alcuni sì, possono esserci fruttani che rientrano nei FODMAP, quindi sono presenti veramente un po' dappertutto, e quindi la dieta a basso contenuto di FODMAP, che secondo questa linea di pensiero può dare dei benefici sui sintomi, va costruita veramente ad personam e bisogna rivolgersi a una persona esperta in questi tipi di diete, perché è una dieta che va a toccare tanti tipi diversi di alimenti. Anche l'insospettabile mela, vedi, si dice una anche mela al giorno, toglie il medico di torno, i broccoli, i cavolfiori, no? Che sono noti per le proprietà antitumorali, però in questo caso andrebbero tolte. Noi non abbiamo... vanno tolte, basta limitarle, quindi va un po' costruita una dieta su misura. Apposita, esattamente. Allora, in tutta questa prima parte di Cuore Denari abbiamo parlato di eliminare, ridurre alcune sostanze, però ci sono delle sostanze che potrebbero invece aiutare il nostro intestino a stare bene. Quindi chiudiamo con il commento del dottor Marco Soncini, che è direttore dell'unità operativa di gastroenterologia al San Carlo di Milano e consigliere nazionale dell'Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno a voi. Dottor Soncini, il dottorelli ci ha tolto, lei ci aggiunge. Che cosa aggiunge alla nostra dieta? Ma io aggiungerei proprio il fatto che abbiamo dei prodotti in Italia splendidi e abbiamo la possibilità di effettuare veramente una dieta mediterranea. Purtroppo lo facciamo poco e questo sicuramente si ci paga. Penalizza. Certo. Quindi ci paga con l'obesità, la sedentarietà, quindi stili di vita. La dieta mediterranea è proprio uno stile di vita, un aspetto culturale. Su quello che si può aggiungere, ecco, proprio perché non si vuole togliere molto di più, perché sennò veramente andiamo a fare diete di esclusione, assolutamente. Noi abbiamo una necessità di dare al nostro corpo degli alimenti sempre più vari possibili, e tra questi anche l'olio d'oliva, che rappresenta un aspetto importante della nostra nutrizione appunto mediterranea, ancora alcuni semi che vengono considerati negletti da larga parte della popolazione, soprattutto pazienti anziani con malattie diverticolari, ecco, stanno a togliersi veramente gli occhi d'addosso, utilizzando praticamente quanto più possibile, togliendo quanto più possibile i semi dell'uva, i semi del kiwi, i semi del pomodoro. Ecco, vanno tranquillizzate queste persone, perché in realtà non è dimostrato che possono essere nocivi per la loro salute, quindi assolutamente non andiamo a togliere da questi alimenti questi aspetti. E poi abbiamo anche dei semi assolutamente molto utili nel quotidiano, che possono aiutarci per quanto riguarda l'aspetto gastroenterologico ad una corretta evacuazione, senza ricorrere allo psyllium, che comunque è un seme importante nell'ambito della possibilità di avere un'evacuazione con feci formate, morbide. Quindi sì. Che semi sono, dottore? Ma sono praticamente dei semi di una pianta che cresce nel Mediterraneo, la Plantagos sylvium, oppure praticamente altri semi che possiamo utilizzare sono i semi di lino che sono ben presenti in cosmetica, ma che possono essere utilizzati anche in un ambito praticamente per dare un ritmo naturale al nostro intestino. Assolutamente sì, quindi hanno queste proprietà che ci permettono di arricchirci di sali minerali, proteine, acidi grassi, ma soprattutto, ecco, mantenere il nostro intestino regolare, e quindi evitandoci quei problemi che sono purtroppo diffusi nella popolazione, che è la stipsi o la variante stiptica della sindrome dell'intestino irritabile. Grazie dottor Soncini per essere stato con noi. Approfondiremo naturalmente questo tema, perché il mondo dei semi piace molto agli ascoltatori di Cuore Denari. Ringraziamo anche il dottor Elli per averci accompagnato in questa puntata, da cui siamo partiti dal glutine, siamo finiti sui semi di lino. Ringrazio tutte e due. Tantissime telefonate, Come ci aspettavamo. Vi inoltreremo le mail dei nostri ascoltatori. Intanto grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie. E allora, adesso intanto cambiamo argomento, speriamo di aver dato una sferzata di energia ai nostri ascoltatori questa mattina con questo argomento. Noi lo cambiamo, prendiamo adesso il filone dei denari parlando dell'ape, non l'ape maio, l'ape regina, ma neanche l'aperitivo, no, perché neanche i ragazzi quello. Lo abbreviano così. Andiamo a fare l'ape, esatto. Parliamo dell'attestato di prestazione energetica, un documento che noi già conoscevamo in passato, si chiamava ACE, attestato di certificazione energetica, ma insomma, sia che lo chiamiamo con un modo che con un altro, è il documento, ACE. È sempre il documento che sintetizza il comportamento, la qualità energetica dell'unità immobiliare, di un'unità immobiliare. Allora, chi compra o chi affitta una casa ha diritto a riceverlo, di conseguenza chi vende e chi affitta come proprietario una casa ha il dovere appunto di rilasciare questo attestato. Vi trovate in queste situazioni? Lo state richiedendo oppure vi è stato richiesto? A chi vi siete rivolti per compilarlo? Avete qualche dubbio, qualche difficoltà? Cominciate subito a scriverci all'800 24 00 24, perché noi stamattina tutte le vostre domande le gireremo al dottor Mauro Mallone, responsabile ufficio efficienza energetica del MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico. Dottor Mallone, buongiorno e buon inizio settimana a lei. Buongiorno a voi. Benvenuto. Inizia subito con una bella interrogazione radiofonica, per cui mi sembra che inizi la sua settimana sotto i migliori auspici. Perché peraltro parliamo di questo argomento? Perché dal 1 ottobre sono cambiati i criteri per redare questo documento. Allora stamattina dobbiamo subito spiegare quali sono queste novità e stare sull'attualità. Intanto, dottor Mallone, chi è che ha il dovere di produrre questo attestato? Il proprietario di una casa prima di venderla o affittarla, oppure chi subentra deve incaricarsi di questo onere? L'adempimento è a carico del proprietario dell'appartamento nel momento in cui vuole venderlo oppure vuole affittarlo. Va detto che le sanzioni, che sono anche consistenti, però in caso di mancata allegazione dell'APE nel contratto di rogito oppure della non indicazione nel contratto di locazione che è stato visionato l'attestato di prestazione energetica, la multa viene pagata in solido, quindi metà il proprietario e metà l'acquirente oppure il locatario. Lei non ci ha dato neanche la prima risposta, che già che parla già di sanzioni, no, dottor Mallone? Quindi mi sembra un aspetto molto interessante. Ammettendo che ci sia qualcuno che proprio in questi giorni stia firmando un rogito per una compravendita immobiliare, ci si accorge, intanto chi si deve accorgere che manca questo documento, se le due parti magari non sono totalmente informate sull'importanza e la rilevanza appunto di questo attestato, deve essere il notaio, e se mancasse durante la giornata, proprio nel momento in cui il rogito si sta firmando, che cosa succede? Può saltare anche una trattativa? Può saltare la trattativa. Devo dire che i notai, soprattutto a seguito del decreto legge del 63 del 2013, sono molto molto attenti finché nel contratto di rogito sia allegato l'APE e che l'APE sia predisposto in forma regolare. Quindi devo dire che non sfugge al notaio, viene fatto dai notai. Allora, che cosa ci racconta questo documento, dottor Mallone, della nostra casa? Perché tra l'altro volevo raccontarla a Nicoletta, più che una pagella, pensa che qualcuno l'ha definito la cartella clinica dell'unità immobiliare che viene messa sul mercato. Hanno sentito cuore denari, esattamente, hanno voluto mi hai tolto fare le parole di bocca. Con quale obiettivo è stato introdotto l'obbligo di produrre e di preparare questo documento, dottor Mallone? L'intento è di dare un'informazione all'acquirente dell'appartamento oppure al locatario su qual è l'efficienza energetica dell'appartamento che sta per acquistare o che vuole locare. Questo è l'intento, quindi dare un'informazione, rendere consapevole l'acquirente sulla qualità energetica dell'edificio, che tra l'altro non è né più né meno di quello che ormai facciamo da anni quando andiamo a acquistare un frigorifero. Andiamo a vedere l'etichetta e siamo disposti a pagare un prezzo un po' più alto, certo, se il frigo ovviamente ha un consumo di energia inferiore rispetto a un altro modello. Tra l'altro non è proprio da tantissimi anni che ne sentiamo parlare, ma soprattutto quando da ACE è diventato APE, quando da attestato di certificazione energetica si è trasformato in attestato di prestazione energetica, dottor Mallone? Nel giugno 2013, quando appunto è stato emanato questo decreto legge di ricepimento di una direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici, è stata cambiata la denominazione da attestato di certificazione energetica in attestato di prestazione energetica. Altre novità poi sono arrivate proprio dal 1 ottobre, motivo per cui abbiamo deciso di fare questa trasmissione questa mattina. Da questa data è cambiato di nuovo il quadro normativo per il rilascio di questo documento. Allora, quali novità rispetto a prima? Devo dire che ci sono tantissime novità, in primis il fatto che il nuovo attestato di prestazione energetica prende in considerazione i consumi di energia per il riscaldamento, per la produzione di acqua calda sanitaria e anche per il raffrescamento. Questo aspetto, la parte raffrescamento, nel vecchio APE non era considerato. Ma altri elementi di novità riguardano il fatto che il documento è un documento confrontabile su tutto il territorio nazionale, perché in passato alcune regioni si erano mosse in un modo un pochino autonomo e quindi c'era la difficoltà poi per il cittadino di confrontare l'attestato di prestazione energetica per un appartamento sito in Milano piuttosto che l'appartamento sito a Palermo. Mi ricordo quando abbiamo fatto delle trasmissioni in passato che effettivamente anche con gli esperti che invitavamo rimandavano sempre alla legislazione, alla disciplina regionale per molti aspetti. Adesso invece il criterio è omogeneo su tutto il territorio nazionale, dottor Mallone. Che cosa implica questa novità? Che cosa significa? Che importanza ha? Appunto la possibilità per l'acquirente di confrontare la qualità dell'edificio, dell'appartamento su tutto il territorio nazionale, perché i criteri per definire la classe energetica dell'edificio sono appunto uguali su tutto il territorio nazionale. Senta, ma questa novità, sì, il fatto che sia entrata in vigore adesso dal 1 ottobre, implica che tutti coloro che magari avevano già elaborato, si erano dotati di questo APE, che ne so, in primavera, adesso devono rinnovarlo, devono rifarlo di nuovo? Assolutamente no. L'APE ha una durata di 10 anni. Quindi se uno l'ha fatto nel primavera del 2015 fino a primavera del 2024 è tranquillo, a certe condizioni. A meno che non debba, ecco, esatto, se questa casa ha deciso di rivenderla? No, è comunque, vale è comunque valido l'APE perché ha questa durata di 10 anni. Se però sono stati fatti degli interventi importanti di riqualificazione energetica dell'appartamento, e credo che sia proprio nell'interesse del proprietario di rinnovare l'APE. Certo, perché se migliora la prestazione energetica magari cambia un pochino il prezzo. Lo può vendere a un prezzo un pochino più alto. Questo è il buon senso anche. Sentiamo qualche ascoltatore intanto prima della borsa. Andiamo da Rino, che ci chiama da Milano. Esatto, sempre all'800 24 00 24, se qualcuno è come l'APE, a valenza nazionale, esatto, su scala nazionale. Sì, non solo per 10 anni, questo nostro numero sta ormai valendo da un sacco di tempo, da molto più tempo. Rino, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Saluti a tutte e due, e poi a Donatella. No, veramente. Magari a Nicoletta. Mi chiamo Nicoletta. Marino, Nicoletta. Ma non importa. Sì. Non importa se mi preferisce Donatella, io sono Donatella per lei. Solo per lei qualche però volta divento Barbara così all'impronta, però. Rino, ci dica tutto. Andiamo alla peace. No, che mi abbia risposto già nell'ultimissimo intervento perché era preoccupato di doverlo rifare? No, ho fatto sia per me che per i miei fratelli, per mia mamma, abbiamo fatto tutte le certificazioni all'inizio del 2015. Sì. Bravo. Quindi non niente. Senta Rino, allora facciamo un'altra cosa, visto che lei ci ha dato questa testimonianza, la risposta che gliel'avevamo già data, le faccio io una domanda. Quanto ha speso per fare tutto questo lavoretto? Dunque, quanto le hanno chiesto i certi? Il prezzo di listino, cioè il prezzo richiesto era 150 euro cada una. Sì. Poi siccome ne abbiamo fatte, ci siamo messi insieme, ne abbiamo fatte 6 o 7, neanche tantissime, 6 però, o 7. Vabbè, 6 o 7 case. Significa che c'ha 6-7 casine. Un buon partito, Rino, eh? No, io, mio fratello, mia mamma. Ha dato questa rinfrescata energetica alla casa. Ma quanto ci ha messo, Rino, scusi? 125-130. Okay. Ma di tempo quanto ci ha messo? No, è stato relativamente breve, nel senso che nel giro di un mese ha fatto tutto. Certo, adesso spiegheremo anche che tipo di controllo esatto il tecnico abilitato deve fare nella casa per rilasciare poi questo documento. È chiaro che immagino vari anche dal tipo di immobile che deve essere controllato, monitorato. Prima di sentire Carolina della provincia di Pescara e prima di commentare col dottor Mallone il caso di Rino anche sui costi che devono essere sostenuti per dotarsi di questa pagella energetica, direi che è tempo di andare a raccontare anche ai nostri amici che ci seguono da casa, visto che non c'è più l'appuntamento delle 10.30, chiedono a gran voce, la racconto? Io direi che potresti farlo, sarebbe proprio il momento ideale, anche Carmelo è sorridente, Mercati. Mercati. Invesco. per i tuoi risparmi. Investi con noi. Vi presenta Cuore e Denari. Italiano 2, Geografia 2, Storia 2. A voi schifo, papà. Tu che ne dici? A schifo, fa schifo. Matematica 3. Vergogna, vergogna. Eh sì, perché anche noi stamattina potremmo definirla la pagella energetica della nostra casa, l'APE, l'attestato di prestazione energetica, questo documento che sintetizza le qualità energetiche dell'unità immobiliare in cui abitiamo o che intendiamo vendere, o quella che intendiamo acquistare. Abbiamo detto appunto prima che chi compra o affitta ha il diritto a ricevere questo documento, anzi c'è proprio un obbligo, questo documento va legato anche al rogito, l'atto che sigla la compravendita definitiva di un immobile. Pertanto chi mette in vendita questa casa ha l'obbligo a sua volta appunto di rilasciarlo. Allora stamattina a Cuore Denari vi stiamo spiegando come funziona, come si richiede, tutte le novità che sono entrate in vigore dal 1 ottobre. Questo documento, adesso che prima era differente a seconda della regione nella quale lo si doveva produrre, adesso invece ha dei caratteri, dei criteri omogenei di elaborazione e di redazione. 800 24 0024 il numero verde per tutte le vostre domande. Rispondo subito all'ascoltatrice Giacinta che ci scrive una mail a cuoredenari@radio24, dice: non ho capito, ora non serve più. No, serve, anzi, altrimenti se siete in procinto di stipulare un rogito, un contratto d'affitto, se questo documento non viene allegato al contratto, potrebbe anche essere messo in discussione il contratto di compravendita appunto di affitto. Comunque ci sta chiarendo tutti gli aspetti stamattina il dottor Mauro Mallone, responsabile dell'ufficio efficienza energetica del Ministero dello Sviluppo Economico. Peraltro approfitto anche per ricordare che sul sito dell'Enea, se volete, ci sono tante notizie su tutti questi argomenti. Adesso è un sito che si sta un po' ricostruendo, con informazioni molto più chiare rispetto al passato, per cui anche lì, insieme a quello del Mise, trovate tutte le informazioni su questo tema. Allora, voleva commentare, dottor Mallone, il tema posto dall'ascoltatore precedente. Quest'anno praticamente la famiglia dell'amico che ci ha chiamato prima ha deciso di dotare di pagella energetica tutti gli immobili di loro proprietà. Secondo lei, a prescindere dal fatto che si venda o che si affitti, è bene ogni tanto pensare un po' di dotare l'immobile di questa pagella, o comunque dobbiamo preoccuparci di farlo solamente se siamo in procinto di vendere, comprare o affittare? Meno? Che dice? Allora, per quanto riguarda l'obbligo, ovviamente l'adempimento è necessario assolverlo soltanto in caso di vendita o di affitto dell'immobile. Noi riteniamo che sia comunque un piccolo investimento che dà delle informazioni sul consumo dell'energia all'interno dell'unità immobiliare e soprattutto dà delle indicazioni su quali interventi possono essere realizzati all'interno dell'unità immobiliare per migliorare la classe energetica e in quanto tempo l'investimento fatto dal proprietario viene ripagato. Quindi questa è un'ulteriore novità del nuovo APE, dell'APE introdotto dal 1 ottobre 2014, perché c'è l'obbligo da parte del certificatore di redigere questa sezione dell'APE appunto dedicata su quali interventi possono essere effettuati, quali sono gli effetti degli interventi in termini di miglioramento della prestazione energetica e quanto è il tempo di ritorno dell'investimento, incluso l'indicazione delle agevolazioni previste dalla normativa vigente. Faccio l'esempio, l'ecobonus, il conto termico, che sono tutti strumenti finalizzati a stimolare poi la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica da parte dei cittadini. Senta, è un documento molto complicato, quante pagine lo compongono, insomma, anche perché abbiamo capito che effettivamente un tecnico abilitato, poi cercheremo di capire anche dove andiamo a reperire il tecnico abilitato giusto che possa rilasciarci questa pagella, ecco, ma è un lavoro molto complesso, non credo che debba fare un esame della casa particolarmente impegnativo. Ecco, quanto ci si mette? Chiaramente parliamo di appartamenti normali, dottor Mallone, poi per edifici che hanno caratteristiche più complesse probabilmente il lavoro è diverso, ma mediamente per una casa normale, insomma, che tipo di lavoro di controllo deve essere fatto per stilare questa pagella? Innanzitutto, rispetto al passato, adesso c'è l'obbligo che il certificatore faccia almeno un sopralluogo all'interno dell'appartamento, quindi questo pure per evitare Beh, direi che a distanza distanza fare questa pagella, la predisposizione delle api in remoto ovviamente poi la qualità è dubbia su quello che poi viene appunto riportato nell'attestato. Il, è chiaro che deve fare dei rilievi sulle dimensioni dell'unità immobiliare, sulla caratteristica degli infissi, esatto, l'età dell'edificio, dell'edificio, valutare la qualità degli impianti, quindi deve analizzare il libretto d'impianto per stabilire conoscere il rendimento dell'impianto, e quindi c'è dell'impianto un pochino di lavoro da fare. Intende di riscaldamento, per esempio? Certo, infatti ho sentito dal signor Rino quei 50 euro... €150 forse, ecco, ci siamo. Poi se l'ha fatto anche cumulativo su diversi edifici, forse è la cifra, diciamo, giusta. Sappiamo che ci sono casi in cui l'APE viene appunto fatto telefonicamente a 50-60 euro, lì bisogna stare molto attenti perché la qualità dell'APE ovviamente è quella che non riflette diciamo poi l'efficienza. Insomma, se ci propongono la compilazione di moduli standard non accettiamo, perché poi non sono evidentemente documenti che ci raccontano la verità sulla qualità energetica delle nostre case. Allora, tra l'altro, a proposito di novità in vigore dal 1 ottobre, leggo, dottor Mallone, che queste nuove disposizioni cambiano le carte in tavola anche per le agenzie immobiliari. Volevo andare subito a questa domanda perché c'è proprio un ascoltatore, Enrico, agente immobiliare di Cerveteri, che scrive: speriamo che questo sia l'ultimo cambiamento. Che tipo di adempimenti sono chiamati gli agenti immobiliari in virtù di questa novità sulla prestazione energetica della casa? Gli agenti immobiliari, nel caso di annunci di vendita o di locazione, devono esporre una targhetta con l'indicazione un'etichetta, proprio con l'indicazione della classe energetica dell'edificio e sulla prestazione energetica del fabbricato, che sono tutte informazioni che comunque sono contenute nell'attestato di prestazione energetica. Quindi, diciamo, per il nuovo compito dell'agente immobiliare, qualora metta l'avviso, la pubblicità dell'immobile in vendita in vetrina, deve anche chiarire e deve essere ben visibile appunto nell'annuncio la caratteristica energetica della casa, le prestazioni energetiche della casa. Sì, abbiamo proprio predisposto un apposito format per gli annunci immobiliari. Poi per gli annunci, quelli fatti via internet o sulla stampa, è sufficiente indicare la classe energetica, la prestazione energetica, però nel caso dell'annuncio classico in vetrina nell'agenzia immobiliare c'è un apposito format che deve essere rispettato. 800 24 00 24, intanto continuo, esatto, seguirci anche su Facebook, sì. Infatti Giovanna ci scrive, esatto, se vale anche per i negozi l'APE. Esatto, edifici commerciali, dottor Mallone, anche per questa tipologia di immobile ci sono delle novità dal 1 ottobre, le stesse novità che valgono per gli immobili residenziali? Le stesse regole che per gli appartamenti valgono anche per i negozi, per le unità dove vengono svolte attività commerciali. Diciamo più in generale all'interno di quelle unità immobiliari dove c'è un impianto di riscaldamento e di raffrescamento. Carolina da Pescara, benvenuta, buongiorno. Buongiorno, benvenuta. Dottoresse, complimenti per una trasmissione meravigliosa. Ah, grazie, grazie mille. Cortesia, vorrei chiedere se nel caso di vendita di un appartamentino disabitato da più di 20 anni, e con gli impianti completamente da ristrutturare, certo, anzi no, da rifare ex novo e l'appartamento completamente da ristrutturare. Ma Carolina, quindi, l'appartamento andrà venduto prima della ristrutturazione o dopo? Sì, prima della ristrutturazione, quindi vorrei chiedere se siamo... Cioè, se abbiamo l'obbligo di produrre, esatto, l'APE, produrre questo, certo, certificato. Dottor Mallone, sì, magari l'obbligo c'è, ma chiaramente in questo documento verranno indicate le prestazioni energetiche un po' lacunose di questo appartamento, no? Poi ne, sì, sarà pienamente consapevole l'acquirente. L'acquirente oppure il locatario è consapevole che la qualità energetica dell'unità immobiliare non è eccezionale. Esatto, tra l'altro la peggior prestazione energetica in assoluto dal punto di vista della simbologia, come si definisce? Lettera G, perché la scala della classificazione energetica è suddivisa in 10 classi, G è la più bassa a salire, fino alla B, e poi la classe A, che stiamo già parlando di unità immobiliari molto performanti da un punto di vista energetico, si suddivide in quattro sottoclassi: la 1, la 2, la 3 e la 4. Chiarissimo. Quindi Carolina, sì, se lei è una venditrice deve allegare quando andrà a rogito a tutta la documentazione anche questo documento che riporterà le caratteristiche di questo immobile, che sono quelle che sono, insomma. Allora, sì, faccio in tempo a prendere un'altra domanda, poi rispondiamo magari dopo il traffico, che dici? Andiamo a Roma, quindi. A Roma. C'è Angelo. Buongiorno Angelo, benvenuto. Buongiorno a entrambe. Senta, una domanda velocissima. Noi abbiamo ristrutturato un immobile, diciamo, rustico, e quindi è una struttura composta da due parti, una vecchia parte in pietra che è stata sanificata e una seconda parte invece nuova, quindi fatta con materiali più performanti. Che, diciamo, meraviglia è diventata questo rustico, Angelo. Vabbè, quando ci invita una cosina, un buchetto, no? Faccio il modesto. Allora Angelo, quindi, stia lì, esatto, quindi no, magari la domanda qual era? Sono state, diciamo, è stata richiesta in questo momento l'agibilità, sì, e quindi volevo sapere se questo certificato può essere compilato direttamente dal direttore dei lavori, certo, che è un ingegnere, chiaramente. Ma poi Angelo, lei lo vende questo immobile ristrutturato o ve lo godete voi in famiglia? In fase di pratiche, vorrei chiudere tutto e basta. Ma no, se lo tiene. Ah, se lo tiene, però non deve venderlo. No, perché per no, però comunque sia. Già che c'è, dice, perché lo faccio. Esatto. Bravissimo. Lui vuole essere proprio cristallino, tutto in regola, Angelo. Preciso, preciso. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo insieme con il dottor Mauro Mallone, pronto a rispondere a tutti i vostri dubbi e alle vostre domande. Stufe, caldaie e termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta. Cuore e denari. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare. Non la sentiamo tutta perché ormai la casetta di Sergio Endrigo ce la sentiamo sempre. Quindi andiamo subito a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. Tra l'altro mi riscrive Giacinta e mi chiede: guarda Deborah, forse non sono stata molto chiara nel formulare la mia domanda. Volevo dire, io ho l'APE del 18 settembre di quest'anno. Non è più valido? Guardi Giacinta, è validissimo per 10 anni. Dovevamo fare il domandone. Quando ci sono queste cose? Allora guarda, ti do libertà di scelta. Magari inventa una domandona per i nostri ascoltatori. Nicoletta, intanto che io continuo a conversare col dottor Mallone del Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo sentito dottor Mallone. Io direi che sarebbe un'ottima idea, un compito da dare al dottor Mallone, non a Nicoletta, sull'APE. Ma perché? Dai, perché tu sei. Perché incarico il dottor Mallone. Ace, APE. Dottor Mallone, pensi, la scarica a lei la responsabilità. Secondo così lei, sei che bella domanda. Facile, ed è troppo difficile. No, allora intanto rispondiamo ad Angelo, perché si è ristrutturato tutta la sua cascinetta. Il suo immobile rustico, molto modestamente diceva che era una piccola casetta, stava completando la documentazione per la richiesta di agibilità. Lui chiedeva se l'attestato di prestazione energetica lo può rilasciare anche questo direttore lavori che sta eseguendo appunto tutto il controllo per l'agibilità della casa. Ed è un ingegnere. Dottor Mallone. Ecco, su questo aspetto la norma è precisa, l'APE deve essere predisposto da un soggetto terzo, quindi un soggetto che sia estraneo alla proprietà, alla progettazione, alla realizzazione dell'intervento. È anche comprensibile perché magari chi fa l'intervento potrebbe avere l'interesse a spingere un pochino verso l'alto l'attestato di prestazione energetica in termini di, certo, appunto di classe energetica, e quindi ci deve essere un soggetto terzo che predispone l'APE. Allora, questo tecnico abilitato, dottor Mallone, questo soggetto terzo, dove lo troviamo? Che tipo di professionista è? Che tipo di competenze ha anche? Allora, dal nostro monitoraggio, il grosso dei tecnici certificatori sono ingegneri, architetti, geometri, ma anche periti. Tutti questi tecnici comunque, per poter redigere l'APE, devono essere soggetti che hanno delle specifiche qualifiche, e in molti casi gli viene richiesto anche la partecipazione ad un corso di 80 ore con relativo esame. Poi le regioni, buona parte delle regioni, hanno proprio pubblicato degli elenchi accessibili via internet, dove sono elencati tutti i tecnici che sono abilitati dalle regioni a svolgere questo servizio. Ecco, quindi insomma ci dica un po' meglio, se io abito, non lo so, in Abruzzo e domani mattina decido che devo, ho messo in vendita un immobile e devo redare appunto l'ape per fare in modo che tutta la documentazione di questa casa sia a posto, pronta per la vendita. Su che sito vado a collegarmi per cercare il tecnico abilitato a rilasciarmi l'attestato di prestazione energetica? Sul sito della Regione Abruzzo ci dovrebbe essere l'elenco dei soggetti certificati, certo, dalla Regione. Perfetto, quindi insomma ho fatto l'esempio dell'Abruzzo, vale per, okay, la Campania, okay, per la Valle d'Aosta, certo, per il Piemonte e quant'altro. Per le Marche? Certamente. Anche per le Marche. Speriamo. Ho una domanda da Karim da Parma. Sì. È vero che per certificare una classe energetica G basta un'autocertificazione? Ecco, dottor Mallone, allora qua è partito... Assolutamente no. Ecco, il dibattito sulla certificazione rilasciata con il canale online, non le dico che cosa non sta suscitando ai nostri centralini e al nostro numero di SMS. Noi lo scoraggiamo evidentemente, però se questo mercato c'è, stavo pensando, ma com'è possibile? Dottor Mallone, ma non si fanno, il Ministero non fa dei controlli su queste modalità un po' discutibili di rilasciare l'attestato di prestazione? Allora, bassi, 39 euro ad esempio, ci scrivono. I controlli sulla qualità dell'attestato di prestazione energetica viene svolto dalle regioni, ok? Ci sono alcune regioni che sono un pochino più avanti, altre regioni che sono un pochino più indietro su questo, diciamo, per questo aspetto. Altro elemento di novità con il nuovo APE del 1 ottobre 2014, che è fatto obbligo alle regioni di controllare almeno il 2% degli attestati di prestazione energetica rilasciati nel corso dell'anno. Il controllo viene fatto con che criteri? Un po' random, a caso, oppure magari si va proprio a cercare di pizzicare quello che ha qualche caratteristica un po' non chiara? E come Controllo random, si tiene però conto soprattutto di quegli attestati di prestazione energetica che certificano una classe energetica alta, cioè nel senso se quell'appartamento l'attestato prevede una classe energetica da B a A1 a 2, lì ovviamente c'è più attenzione per andare a vedere se realmente, certo, corrisponde a quella. Anche perché sappiamo, insomma, e lo diciamo tante volte in questa trasmissione, quelle che sono le caratteristiche del patrimonio edilizio italiano, perché di conseguenza se tu dici di abitare magari in un quartiere, in un edificio che ha, secondo quel comune, determinate caratteristiche energetiche, tu dici che invece il tuo appartamento ce le ha elevatissime, altre. Magari ecco, ci sono gli strumenti per poter andare a fare una verifica. E allora ribadiamo anche un po' il meccanismo sanzionatorio, dottor Mallone. Se si riscontra per chi fa il controllo che le caratteristiche energetiche riportate nell'APE non sono esattamente rispondenti a quelle reali, chi rischia e che cosa? Rischia esclusivamente il tecnico che ha redatto l'APE, quindi il cittadino, il proprietario non risponde, giusto? Non può rispondere il proprietario se quello ha fatto un'APE non conforme alla qualità, non conforme alla norma, e la sanzione prevista è da 700 euro a 4200 euro e la segnalazione all'ordine professionale, che magari provvede alla sospensione per X mesi come punizione al tecnico che non ha fatto l'APE conforme alla normativa. Punizione, dottor Mallone ha parlato. Claudio da Macerata, velocemente, grazie, andiamo alle ultime domande di oggi. Siete in tanti ad averci scritto, ci fa molto piacere. Sì. Saluto tutti e due. La domanda è questa, guardi. Io ho un appartamento che sto vendendo che ho ristrutturato, ma non è finito praticamente, manca la caldaia e alcune altre cose. È un primo piano, cioè un piano terra, che c'è un garage, è lo stesso che devo cambiare la destinazione d'uso. In questo caso come mi devo comportare? Claudio, quando avrà terminato la ristrutturazione, quando l'appartamento sarà pronto per la vendita, se lo mette in vendita, il tecnico? No, io non la fai semplice. La sto vendendo così. La vende grezza. La vende grezza, dottor Mallone, deve fare l'ape da riportare nel rogito con le caratteristiche attuali. Attuali, certo. Se manca la caldaia, il tecnico valuterà l'appartamento nelle condizioni attuali. Esatto, certo. Dopodiché sarà. È come una fotografia, un'istantanea, giusto? Un'istantanea, certo, perfetto. Che chiaramente con il documento lì, nel momento in cui ci metti la caldaia, non vale 10 anni perché dopo 6 mesi la qualità dell'appartamento è cambiata, però poi se ne preoccuperà l'eventuale acquirente quando lo rivenderà. Certo. Allora, dottor Mallone deve tornare a farci il domandone, ma queste ci saranno sicuramente occasioni, così grazie. Anche il dottor Mallone ci pensa. Grazie anche per la chiarezza con cui ci ha spiegato questo argomento, che insomma solo in un po' subdolino, perché può sembrare semplice ma non lo è, ma in realtà poi interessa tantissime persone in Italia. Torniamo domani, che dici? Direi di sì, facciamo alle 10:30. Va bene, appuntamento qua, e sì, puntuale, mi raccomando. Buona con giornata piacere. A tutti.